8.05 minuti, come direbbe il nostro amico Luigi, finalmente mercoledì con il Voltiamo Pagina. Tra l'altro do un buongiorno a tutti i super appassionati e appassionate della rubrica letteraria, ricordando il 333-180-9494, non solo per comunicazione e co-conduzione, anche per i quiz che porteremo in frequenza. Do il buongiorno a Silvia Albertazzi, buongiorno Silvia. Buongiorno a te, buongiorno. Ci siamo. Buongiorno a te, a tutte e a tutti. Grazie per questa disponibilità ulteriore nel portare avanti il Voltiamo Pagina, seconda puntata nell'edizione 2024-2025, alla nostra prof super attiva, perché questo ringraziamento so che è veramente molto molto presente anche in realtà di incontro letterario al di fuori. Magari ne daremo presentazione e anticipazione anche al di fuori del Voltiamo Pagina. Non sono geloso, mi fa molto piacere, volevo sotto lineare a questo. Parte il fatto, vabbè, che sono poi due cose, non è che una la settimana scorsa. Io so che ogni settimana ne abbiamo qualcuna, per cui dico grazie che anche questa settimana però ti abbiamo al Voltiamo Pagina. Come saluto Stefano Calanchi, il nostro notaio, eccolo qui presente e puntuale. Beh, cominciamo la nostra rassegna portando in questa fine estate un momento in cui mi pare, poi tu mi dirai, qualcosa è un periodo, la ripresa particolarmente nel corso dell'anno, un po' più fertile in ambito di uscite. Penso no. Da ridere, penso di sì, perché io ti ho portato una nuova uscita. Ok. Cioè, nel senso che è un libro che è stato stampato da poco, però non ti piace. Guarda cos'è. Hai portato un capolavoro assoluto, perché è stato, poi lo colleghi anche. Io rido perché appunto questa è la nuovissima traduzione, per cui è uscito da poco, pochissimo anzi, però si tratta di Lord Jim, che è un classico, un classicone direi della letteratura mondiale, non solo inglese, uscito la prima volta nel 1900. Sì, ok, però magari riportato con nuova traduzione. Certo, no, tu parlavi della rentrée, delle nuove uscite. Questa è proprio nuovissima. Paradossale, ecco, un po' paradossale. Sì. Questo ossimoro, se vogliamo, la qualità però resta, ma uscendo da questa discrepanza, è un momento in cui esce un po' di più? Dunque, naturalmente il dopo estate, ecco, diciamo. Il dopo estate, ecco, bravo. Io ho imparato questo che non sapevo, che mi ha detto una persona che ha contatto con case editrici, che in Italia funziona così. In settembre normalmente escono i libri diciamo commerciali, di cui nuovi, sto parlando dei libri nuovi, sono quelli che si sa che potranno vendere bene. In ottobre escono i grandi autori, gli autori importanti, quelli che hanno un nome. Novembre è già vicino a Natale, per cui si va già in zona strenne. E i nuovi di solito li tengono per gennaio. Per l'inizio di anno. Per l'inizio d'anno. Mentre per esempio in Francia la rentrée invece proprio il settembre è il mese in cui escono tutti i libri importanti. Infatti mi ricordo, lo hai proprio chiamato in questo modo perché così è definita ufficialmente. Sì, ufficialmente. È ufficialmente definito un rentrée, un rientro. Mi sembrava, vedi che poi non dico solo sciocchezze per quanto riguarda il Lord Jim. Prima di andare al nostro Lord Jim, visto che si parlava di Francia, io vorrei dire una cosa che mi ha fatto un enorme piacere e che vorrei condividere, sperando che ci ascolti, con chi ha vinto questa primavera il libro di Petit Mangin, sì, intitolato Cose che succedono la notte. Perché se mi si sta ascoltando chi ha vinto questo libro, a parte il fatto che gli dico che mi sono molto pentita di averlo messo in palio, a parte questo, se ci fa sapere se l'ha letto, se gli è piaciuto, se non l'ha letto, che lo legga subito. Che lo restituisca. No, che non che lo se vuole. No, perché il premio come miglior attore a Venezia è andato a Vincent Landon, che è il protagonista del film tratto da questo libro, e mentre io leggevo il libro proprio pensavo, questo sarebbe una parte magnifica per Landon. Vede che ci ha pensato anche qualcun altro, evidentemente. Però siccome è un libro molto molto forte, piccolino, saranno 120 pagine, 150, però molto forte, molto bello, io così volevo dire a chi l'ha vinto, appunto, che sia contento, ecco. Onore al merito per la vittoria. Come io sinceramente, a grandi onori grandi oneri. Non so, leggilo sì. Non so se il film sia all'altezza, perché è difficile un libro così così breve e così forte portarlo al cinema, probabilmente senza eccedere o nella violenza o viceversa nel sentimentalismo. È anche un finale aperto, che sarei curioso di sapere come l'hanno risolto cinematograficamente. Però senza dubbio direi che il protagonista era azzeccato, e lo dimostra anche la vittoria della Coppa Volpi. Quindi carissimo o carissima, palesati, ci farebbe piacere sapere chi sei e condividere anche i contenuti per quanto riguarda una tua recensione. A proposito di recensioni, motivo di dialogo con ascoltatrici e ascoltatori, una bellissima idea l'ha avuta Paola, una vincitrice per quanto riguarda il Voltiamo Pagina di diversi volumi. Ha avuto un'idea, dice: perché tra ascoltatrici e ascoltatori, vedo che alcuni hanno portato più volte la vittoria, non organizziamo una sorta di book crossing Voltiamo Pagina? Sarebbe carino, sì, credo che sarebbe una bellissima idea. È intervenuto Dino, altro vincitore di diverse edizioni, e ha detto: potremmo farlo nella serata di Radio Città Fujiko al binario 69. E veramente, guarda, abbiamo delle ascoltatrici e degli ascoltatori che sono dei vulcani di idee, e condivido queste proposte, mi adopero per portare a realizzazione queste vostre idee di contenuto pregevole. Bando a queste chiacchiere, ci stiamo un po' dilungando, parliamo di novità, di questo giovane esordiente, Conrad con Lord Jim, 1900, punto, non 1900, è 1900. Sì, 1900, esce nel 1900, è considerato forse il libro più importante, certo direi il più famoso insieme a Cuori di Tenebra di Conrad, se non che Cuori di Tenebra è una novella, quindi è densissimo, è bellissimo, ma è molto breve. Lord Jim invece è un bel mattone. Beh, è un bel però mattone. Ho detto bel. Ah, ok, brava. Questo bel, prendilo per bello. Ha diverse accezioni, non è sì. Oh, ma che bel mattone. No. Ok, è un mattone, ma è bello. È bello, sì. Confermo. È bello. Mettiamo subito in chiaro anche che in questa nuova traduzione è anche abbastanza scorrevole, cioè è una bella, veramente una bella traduzione. La casa editrice qual è? È la Burr, okay. Rizzoli. Per chi non lo conoscesse, è la storia di un giovane ufficiale di marina, uno che ha sempre sognato di fare questa vita sul mare, eccetera, molto romantico, pieno di sogni, pieno di grandi illusioni, aspettative, sì, l'ho letto, molto, molto giovane anche, il quale si trova in una situazione molto difficile su una nave scassatissima che trasporta dei pellegrini verso la Mecca, e c'è una tempesta, la nave fa acqua e lui si trova in bilico, non sa più come comportarsi, è convinto che il capitano fugge subito, ecco, insieme al macchinista e a altra parte dell'equipaggio, e lui si trova lì da solo, non sa che cosa fare, chiaramente ha l'impressione che tanto la nave andrà a picco, calare a picco, ci sono solo due scialuppe per centinaia di pellegrini, i quali in quel momento è notte, stanno dormendo. A un certo punto lui scappa insieme agli altri. Paradossalmente la nave viene invece salvata. Non affonda, i pellegrini vengono salvati, e mentre il capitano e gli altri si danno alla macchia, quindi non sono più reperibili, diciamo, lui si presenta spontaneamente, viene mandato a processo e chiaramente coperto da una infamia enorme, un'onta clamorosa, degradato, sì. E dopo passerà la sua vita a fuggire da questa sua vergogna, cioè andando sempre più lontano, sempre più verso Oriente, sempre più verso i mari dell'Oriente, i mari del Sud, e avrà ogni volta che, facendo tutti i mestieri, anche più umili, ma anche quando riesce ad avere delle occupazioni di un certo livello, se soltanto sente qualcuno che fa riferimento a quella vecchia storia che non è mai dimenticata, scappa. Sì. Abbandona tutto e scappa finché non arriva in questa isola sperduta dove c'è in atto, dove certo nessuno sa chi è, sa la sua storia, e dove c'è in atto una guerra civile, e lì riesce a a supportare la parte, diciamo, buona, a fare vincere la guerra a questi indigeni, diventa in qualche modo un eroe per loro e conseguentemente vive in pace, sereno e felice insieme a queste persone, sempre però tormentato interiormente, un personaggio estremamente tormentato, fin tanto che, e qui non diciamo cosa succede. Certo, però questa è una sorta di piccolo riscatto. Ci sono tanti contenuti all'interno di Lord Jim per quanto riguarda l'introspezione. Chiaro che un grande maestro come Conrad non poteva che lasciare altra emozione. Per quello che è la fuga davanti a determinate situazioni di vita, beh, non serve a nulla fuggire, neanche nei mari del sud, perché tutto ciò ritorna costantemente. Certo. E la cosa naturalmente più interessante, più nuova per i tempi di Lord Jim è il modo come è raccontato. Certo. Perché come tanti altri romanzi di Conrad, è raccontato da questo personaggio che si chiama Marlowe e che è a sua volta un marinaio, un capitano di lungo corso, il quale, avendo sempre viaggiato sui mari, ha conosciuto tante storie, ha visto tanti episodi e tra questi appunto ha incontrato Lord Jim, ha incontrato Jim e ha conosciuto la sua storia e l'ha seguita dall'inizio alla fine. Quindi in una notte in cui è insieme ad altri marinai e si bevono e raccontano storie, Marlowe in questa lunga notte racconta la storia di Lord Jim. Perché Lord Jim? Perché quando arriva finalmente a trovare questa pace, diciamo, pseudo pace tra gli indigeni nell'ultima parte del libro, questi indigeni lo ammirano tanto che lo chiamano Tuan Jim, e Tuan è l'equivalente nella lingua locale di Lord, per cui la quindi trasposizione lui rimane Lord Jim. Manda i suoi saluti Raffaele, che ricambiamo. Ciao Raffaele, buona giornata, grazie per questo saluto legato al Voltiamo Pagina. Abbiamo una playlist curata da Silvia e Stefano. Stefano e Silvia a quattro mani, a due questa mani volta, che proporzioni ha questa playlist? Direi che è un 98% mia. Ok, immaginavo perché, dai titoli. No, perché Stefano non c'aveva mai tempo. Ah, è stato molto impegnato. Ho capito. Avrà tempo per il Voltiamo Pagina, per essere notaio durante il e poi si vede che forse Lord Jim non lo attirava, non lo so. Anche perché per prepararmi su questa cosa mi sono anche andata a rivedere il film Lord Jim con Peter O'Toole, e l'ho fatto rivedere anche a lui, e si deve essere talmente annoiato che no. Cioè, basta. No, il film veramente è un quello film, sì, che è un pochino un mattone. Allora è molto, molto datato, è un film degli anni tardi anni 60, no, o metà anni 60, perché viene subito dopo Lawrence d'Arabia. L'hanno fatto per sfruttare appunto la grande popolarità di Peter O'Toole con Lawrence d'Arabia, ed è, a parte che hanno rimesso mano un po' alla trama per comodità, per cui tratta quasi esclusivamente dell'ultima parte della vita di Lord Jim. Marlowe c'è e non c'è, non è narrato da Marlowe, no, in qualche modo, quindi diciamo che diventa un grande, così, un gran filmone d'avventura di durata notevole, due ore sai e mezza. Sai che abbiamo un importante invece ascoltatore che ha aperto con un semplice ciao, ma il contenuto dell'altro messaggio al 333-180-9494 ci svela che è lui il vincitore del libro. Ah, e chi è? Raffaele. Ah, ecco. Grazie Raffaele. Grazie Raffaele. L'ho letto non appena ritirato tutto d'un fiato. Eh sì, è veramente io un l'ho libro. consiglio a tutti. È veramente un libro che si legge tutto d'un fiato. Grazie Raffaele, vedi che non ha assolutamente, non ha mancato l'appuntamento. Adesso allora gli facciamo un'altra proposta. No, non massacriamolo, no. Una proposta. Quando uscirà il libro andiamo, sia io che te, a vedere Raffaele, a vedere il film e poi ci scambiamo le idee se vale il libro. Ecco. Certo, la trasposizione cinematografica. Stiamo parlando di Cose che accadono la notte di Laurent, mi sembra che sia Timangin. Alle 8:20 minuti il brano è di Vinicio Capossela. Beh, qui vedo che in copertina già da ammiraglio un po', per così dire. Poi questo è Lord Jim proprio, dedicato alla storia di Lord Jim. Ed è anche in copertina. Così, questo era facile da scegliere. Naufrago, a tra poco. Ma invece rivelata nel momento che sta te Lord Jim. Credevi di essere forte, credevi di essere saldo. Ora sai chi sei, ora che sta te Lord Jim. Proprio ora che sta te Lord Jim. Le domande non ti toccano, ti piegano e ti interrogano. Tornare indietro un attimo, ma non c'è niente da rifare, solo da aspettare la prossima occasione che ancora tocchi a te Lord Jim. Ora hai mancato il colpo, ma di questo non si muore. È solo che ora sai di che pasta sei Lord Jim. E dentro te che sai Lord Jim. Per commettere un crimine ci vuole il suo coraggio, ma per voltare la testa basta la debolezza. Sono tutti complici e non te ne vorrebbero, ti giustificherebbero giustificando loro. E dentro te che sai come che farai, come ti comporterai quando ancora starà te Lord Jim. Siano i giudici a tenerla, lasciare al mondo fuori la condanna e la soluzione, ma farsi giudici di sé non c'è più espiazione. Non c'è un confessore puoi affidare la tua pena, sali il tuo calvario di esule in esilio, porta sulle spalle la tua croce di Caino. Non c'è abbastanza terra più per te, terra più per te. Il salto e pozzo non affondo, hai perso l'innocenza, sei uno di noi Lord Jim. Ora hai la conoscenza, sei uno di noi Lord Jim. Hai perso l'innocenza, sei uno di noi Lord Jim. Dal disco Marinai, Profeti e Balene, quindi un disco assolutamente marittimo tra navigazione, naviganti, salpare con Vinicio Capossela e il brano Lord Jim, portato in playlist per partire in musica, oltre che con il prezioso consiglio letterario, è un grande classico, però io amo i classici intanto in questione in virtù del fatto magari che non ho avuto possibilità di leggerli da giovanissimo. Vicino a me c'è sempre un grande classico. Sto leggendo Il gioco delle perle di vetro, che è un libro di Herman Hesse. Di S, che ecco un altro bel tomo, mattoncino, è un sì. Mattoncino. Ok, piccola divagazione, però ho anche un lavoro che presenterò tra poco, insomma. Beh, non dico di lui leggete tutto e poi vi spiegherò il perché, ma restiamo con Lord Jim. E quello che ti volevo chiedere, sì, in procinto del quiz, tra quelle edizioni che tu hai letto, hai portato questa oltre che per motivi di ultima uscita, come hai trovato la traduzione o cosa hai trovato di diverso, ecco, diciamo così, da altri aspetti che ti hanno portato a metterlo sotto i riflettori del voltiamo pagina? Allora, guarda, io il libro l'avevo letto per dovere quando andavo all'università, vedi in mo. Inglese. E avevo fatto una fatica tremenda, ma proprio perché l'inglese di Conrad è piuttosto difficile, in quanto, come sappiamo, Conrad era di origine polacca, anzi era polacco. A casa sua parlava polacco e poi gli avevano insegnato il francese e il padre gli consigliava di leggere, cioè in famiglia gli consigliavano di leggere molto in polacco e in francese. L'inglese lui l'ha imparato quando, andando per mare, si è trovato al servizio della Marina Britannica e ha dovuto imparare l'inglese, aveva 19-20 anni. Poi è diventato uno dei più grandi scrittori inglesi mai esistiti, però è chiaro che nel suo inglese c'è una costruzione, un qualche cosa che, anzi molta critica ha anche particolarmente apprezzato, qualche cosa di esotico, diciamo, che certe volte rende il suo modo di scrivere, non dico ostico, però molto difficile. Cioè è uno di quegli autori che devi tornare indietro, okay, che non puoi leggere. Cosa bella, non sempre sì. Negativa. Non dico che devi rileggerlo tutto, ma che certe frasi per capirle devi tornare indietro. Ecco, il bello di questa traduzione è che è riuscita a mantenere la, diciamo così, non dico l'oscurità, ma comunque, se vogliamo chiamarlo esotismo, chiamiamolo come vogliamo, di Conrad, però riuscendo anche a farcelo apprezzare, a non essere troppo pesante. Okay. Direi che è una traduzione molto, molto, tra virgolette, moderna, ecco, senza per questo però modernizzare il dettato di Conrad. Ti faccio un esempio. Lord Jim. Che bella domanda che ti ho fatto. Sì, in effetti. Lord Jim, del resto era una domanda giusta, perché diceva, perché porti questo libro di certo. 124 anni fa, così. Lord Jim è un personaggio molto difficile, no, da capire. No, le sue azioni non si capiscono. Lo stesso Marlowe è molto dubbioso, no? Perché questo ragazzo, va bene, ha fatto una cosa tremenda, però oramai è stato punito e non si capisce perché continui a fuggire ogni volta che soltanto sente accennare a quel fatto. E non vuole, sta fuggendo da se stesso proprio. Certo. Nello certo. stesso tempo, però, non è che si crei neanche un'altra identità. Cioè, è un personaggio veramente strano. È veramente strano e veramente difficile da capire. E Marlowe più volte lo dice. Però, come fai a scrivere un libro su un personaggio che non capisci? Ecco, lui per esempio ti dice questo. Questo è il tipo di osservazione che fa Conrad nei suoi romanzi. Dove ci sono spesso queste osservazioni anche di ordine, diciamo così, morale. Lui dice: io non fingo di averlo capito, dice Marlowe. Le vedute che mi ha concesso di sé erano come dei brevi scorci attraverso le mutevoli fenditure di una fitta nebbia. Cioè, guarda che immagine per parlare di sta parlando di una persona. Certo. Frammenti della precisione vivida ed evanescente che non danno un'idea piena e coerente dell'aspetto di una terra. Quindi lui sta paragonando Lord Jim a una terra sotto la nebbia, cioè che è un'immagine che forse anche esposta in questo modo può venire in mente piuttosto a uno che sta usando una lingua che non è proprio la sua, che non ha un e che ha bisogno appunto anche di queste immagini forte per farsi capire. Nutrivano la curiosità senza soddisfarla, ma servivano a orientarsi. lui di fronte a questo personaggio si orienta come in una terra, come di fronte a una terra. Più in generale, lui era fuorviante e per tutto il libro Jim resterà fuorviante fino alla fine. A un certo punto addirittura Marlowe dice, lui continuerà a dire che è una persona dotata di immaginazione, un romantico, viveva di queste sue costruzioni che poi alla fine sono crollate di fronte al suo atto di vigliaccheria. Però dice: le persone dotate di immaginazione oscillano più ampiamente in ogni direzione, come se per l'incerto ancoraggio della vita fosse stata fornita loro una gomena più lunga. Che oltre a essere una bellissima immagine, è la tipica immagine marinaresca di Conrad. Quando tu leggi Conrad, c'è un sacco di queste. C'è tutto un lessico marinaresco che da leggere in inglese è difficilissimo, e anche in italiano spesso non si capisce. Ecco, dice Stein, che è un altro personaggio che conosce e aiuta lo Jim, si limitò a dire che era un romantico. Io invece sapevo soltanto che era uno di noi. Non so se hai sentito la canzone di Capossela, era molto bella, interpreta bene il personaggio, perché alla fine lui continua a dire: è uno di noi, sei uno di noi, sei uno di noi. Sì. Ecco. Durante tutto il libro tu ti domandi cosa vuol dire Marlowe quando dice che Jim è uno di noi. Probabilmente quello che intende Capossela, che è uno di noi, è un essere vigliacco, è un essere debole come siamo tutti noi. Con illusioni. Non è un grande romantico come vorrebbe far credere così l'aura che si porta dietro. E lo dice continuamente Marlowe: era uno di noi. E poi, siccome ha l'impressione che non ce lo sta facendo capire bene cosa vuol dire, dice: vi riferisco così a lungo i miei propri sentimenti istintivi e riflessioni confuse perché rimane così poco da dire su di lui. Lui esistette per me. E dopo tutto è solo attraverso me che lui esiste per voi. L'ho condotto fuori con la mano. L'ho esibito di fronte a voi. Quindi qui siamo addirittura un passo più avanti. Qui è il narratore che ci svela le carte del gioco, che dice: guardate, il Jim è come ve lo racconto io, perché sono io che ve lo sto raccontando, ve lo sto portando, svelando. E chiaramente abbiamo quindi un gioco che su Conrad si sono divertiti da matti, già hanno speso fiumi di parole i narratologi, perché c'è questo gioco appunto del narratore dietro alle cui spalle ci sta ovviamente l'autore Joseph Conrad, però è il narratore Marlowe che si svela, che si smaschera e che dice: guardate, Jim, prendetelo così, è come ve lo dico io, perché se io non ve lo raccontavo voi non lo conoscevate. Non avete possibilità di conoscerlo. E quindi, lui è fuorviante. E allo stesso modo per è cui fuorviante. E la nebbia c'è come. Quindi. E c'è come, sì. Allora, quiz per avere non questa pubblicazione, perché purtroppo non può essere messa a disposizione, avrete un libro a sorpresa che non vi deluderà. Confermi. Allora, io vedo una copertina, sì, sovracopertina verde, anonima, poi farai la dedica. Molto contento, Francesco, della tua dedica. Dai. Oggi un'altra dedica. No, anche questa volta è un libro di un autore americano, però di un grande, cioè non che quello della settimana scorsa fosse piccolo, per carità, però quello della settimana scorsa, possiamo dire, era Dave Eggers, che è un autore contemporaneo, giovane, relativamente giovane, insomma, sulla cinquantina, e mentre questo è uno dei classici viventi della letteratura contemporanea. Bene. Di quelli grossi grossi. Quiz, il quiz è semplicissimo. Vai. Per cui io vi prego di non andare su Google. Non copiate, diciamo. Vince chi arriva primo, insomma, e arrivate subito. Da un famoso lavoro di Conrad è stato tratto un altrettanto famoso film verso la fine degli anni 70. Vorrei sapere il nome del lavoro di Conrad, il titolo del lavoro di Conrad, il titolo del film e il regista. Bene, non sono poche le domande, però sì, ma sono facilissime. È semplice le risposte. Il brano selezionato da Silvia è di Eddie Vedder, perché è stato preso dal film Into the Wild e quindi, che è quello, un personaggio alla Lord Jim, esattamente il protagonista di Into the Wild. Aspettiamo le vostre risposte al 333 180 9494 tra poco. just where to put all your faith and how will it grow? Gonna rise up, bring back holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Wild Wild Life al commento di Lord Jim come colonna sonora. Intanto l'abbiamo tenuta un pochettino in questo rientro in diretta perché abbiamo ancora diverse cose da dirvi e anche da darvi. Un libro meraviglioso di recentissima uscita, prima edizione fine 2023, arrivato per la nave di Teseo qualche giorno fa. Intanto rispondo al mio nostro direttore Alessandro Canella che scrive: Willy che mette Eddie Vedder dei Pearl Jam, domani nevica. No, allora, che non l'ha messo Willy, no, ma l'ho messo io. Non ci penso minimamente di mettere Eddie Vedder, con tutto il rispetto, ma questo dimostra quanto io sia di mentalità aperta e non integralista nelle mie playlist. È tutt'altro. No, non appropriarti della mia playlist. No, Eddie Vedder l'ho messo io. Ma non ci penso minimamente di mettere Eddie Vedder in playlist, rispettandolo tantissimo, Fate come Marco, insomma, per modo di dire, perché certo ho dato risposta esatta al quiz, precisissimo. Noi riceviamo però via WhatsApp o SMS al 333-180-9494, però siccome ci teneva veramente tanto, ha fatto complimenti alla nostra emittente, al Voltiamo Pagina, merita il libro a sorpresa di Silvia da ritirare in libreria Ubi. Le risposte esatte: Cuore di Tenebra, yeah, Apocalypse Now e Francis Ford Coppola. La prof annuisce. Velocemente, Percival Everett, da un Jim all'altro, perché Huckleberry Finn con Lo schiavo fuggiasco nel romanzo portato, capolavoro assoluto di Mark Twain, appunto lo schiavo si chiamava Jim. E voi vi chiederete perché allora il lavoro per Sinfal Everett l'ha chiamato James, se voleva dare questa attenzione. Perché? Perché in questa narrazione vi è uno stravolgimento di onestà intellettuale che è una peculiarità tipica di Percival Everett. Contro gli stereotipi, contro ogni aspetto di banalità per quanto riguarda il quotidiano a cui siamo costantemente sottoposti, lui dà un'attenzione reale a una storia senza imbroglio. In cancellazione va contro stereotipi di racconto letterario, in questo caso va contro uno stereotipo di linguaggio e immagine. Allora, Jim è uno schiavo fuggiasco, insieme a Huckleberry Finn da Mark Twain, Jim diventa James soprattutto per alcune particolarità. Quella che mi ha colpito di più, quando parla Jim con gli schiavi o con i compagni di sventura afroamericani, usa un inglese forbito, perfetto, corretto, pulitissimo, a dispetto di quello che si pensa. Ehi bro, oh yeah, con tutti questi slang che non sono dimenticati. Guarda caso, questi slang li adopera lessicalmente quando è in conversazione con dei bianchi. Quindi c'è questo motivo di scrittura che mi ha affascinato tantissimo. È una storia senza imbroglio, dalla nave di Teseo. Percival Everett, grandissimo intellettuale. Ricorda che Mark Twain è stato censurato per alcuni termini, appunto, che sono stati definiti non idonei al momento della stesura del lavoro di Huckleberry Finn. È un lavoro che è stato considerato capostipite della letteratura americana. Ha avuto le sue difficoltà, probabilmente come tutti i capolavori, l'amicizia tra questo ragazzo e lo schiavo cuggiasco Jim, che così diventa nome esteso anche lui James, un'altra casualità con Lord James, non cercata da me e Silvia, ve lo posso assicurare. Il libro è scritto meravigliosamente di Percival Everett. Perché ho precisato di lui non leggete tutto? Perché ha avuto un momento di blocco, probabilmente ci sta, è comprensibile nella sua produzione estesa. Di lui ricordiamo Deserto Americano, che è un libro secondo me bellissimo come tanti altri. Poi in seguito ha avuto un momento di stasi, si è ripreso in maniera più che brillante con... Posso citare Cancellazione, che ha avuto trasposizione cinematografica molto bella, mi ha confermato Silvia, e lo stesso libro che hai letto quest'estate ti è piaciuto molto, hai detto? Sì, mi è piaciuto molto, anche se devo dire il finale mi ha lasciato un po'... dell'amaro in bocca, vero? Sì, ma mi sembra che alla fine è un libro molto bello per tre quarti, poi comincia a sfilacciarsi. Quasi che lui non sapesse come finirlo, non lo so, mi ha lasciato un po' così. Mentre mi è piaciuto di più il finale che hanno messo al film, sinceramente. Paradossalmente io non ho visto, mi sembra che il film l'abbiano risolto meglio. Ha ricevuto riconoscimenti per la sceneggiatura, sì, comunque per Percival Everett. Il premio il film ha avuto l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. E quindi direi che è importante dal punto di vista letterario, ma il talento di Percival Everett non si discute. In James la con Huckleberry Finn, ma in questo caso da tenere evidenziata è la storia dello schiavo fuggiasco Jim, che qui viene chiamato James, con tanti capolavori anche di espressione lessicale, abbattendo gli stereotipi del linguaggio, no? Abbiamo lo stereotipo di un certo tipo di gergo molto immediato, veloce, contratto, codice, in cui identifichiamo a volte o addirittura andiamo ad imitare il linguaggio nell'hip hop e nel rap, molto così facile e molto, se vogliamo, frazionato. Tutt'altro, lo schiavo James in questo caso, quando racconta o si confronta con altri afroamericani, ha un inglese perfetto. affetto forbito con dei termini molto molto specifici, quando invece parla con i bianchi c'è una completa svolta nel parlare e si ritorna ai contenuti più immediati di cui vi ho dato notizia in precedenza. Questa rilettura di Huckleberry Finn con James di Percival Everett è per voi, però intanto ne è stata fatta trasposizione a proposito di cinema del capolavoro di Mark Twain in diverse situazioni e diverse interpretazioni. I più giovani, i miei coetanei, quindi non giovanissimi, si ricorderanno anche di questa sigla. Ehi, Huck e Jim, nel cuore caldo del profondo sud. Ehi, Huck e Jim, in barca vanno sul Mississippi. È bianco Huck e nero è Jim, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. Mille avventure sappie mobili che sbarrano la via. Ehi, Huck e Jim, nel cuore caldo del profondo sud. Mentre il cotone spunterà, mortali lotte e galli fanno già. Io li chiamo ancora cartoni animati giapponesi, non mi piace il termine, non mi piace, ci mancherebbe, non voglio essere così draconiano e respingente, anche perché è più corretto, però per me sono i cartoni animati giapponesi, manga, anime, certo sono termini corretti e professionali, ma non essendo un esperto, sono più esperto emotivamente parlando, Huck and Jim è stato riportato anche sul piccolo schermo con una serie di episodi in stile appunto cartone animato giapponese. Ma sarà protagonista di tale racconto di cartone animato anche il quiz per avere James di Percival Everett per la nave di Teseo. È un probabile premio Pellegrino, in cinquina ci va sicuramente. Allora, ne hai già detti tanti che oramai la cinquina è diventata una decina. Allora, sai che mi ricordo? Allora, cancellazione sempre di Everett, che lo porto lo stesso e sarà il primo caso di doppietta. Mi ricordo Ian Rush, che è un libro di letteratura americana che non è esattamente un genere che mi appartiene, ma mi è piaciuto tantissimo. E poi Banville, ecco, questi sono coloro. Io ogni tanto ti ho sentito dire questo va in cinquina, questo va in cinquina, che diventa una decina, appunto. No. Restiamo sempre comunque coerenti. L'entusiasmo non manca e il quiz a cui chiedo risposta per quanto riguarda il lavoro che vi ho appena e velocemente presentato, già portato anche nei magazine, è questo. Allora, a proposito di cartoni animati giapponesi e a proposito di corsi d'acqua o distese di acqua oceaniche o di mare, ovviamente un protagonista è stato anche un pescatore. Voi mi dovete dire il nome di questo pescatore precisissimo, infallibile, è stato protagonista veramente molto molto forte sul piccolo schermo. Il nome di questo pescatore giovanissimo per voi, James di Percival Everett, la nave di Teseo. Questo è difficile. È difficilissimo, già 15 risposte, guarda. Boh, io non lo so. Pescatore, grandi orecchie a sventola, sorriso di sale sempre. che sarà? Pesci, cane, spada, che sarà? È questione di momenti. A proposito di doppi sensi, come abbiamo trovato in Pollon con la polvere magica, qua per San Pei troviamo una canna fatta di magia. Poi, boh, gira il mondo con i marinai, quanti mari ne vai. San Pei, e la barca va, la barca scivola con te. Ma adesso è trovare il vincitore. Andiamo in ordine. Il primo assoluto, vediamo se troviamo la firma. Sanpei risponde semplicemente Chiara. Chiara, andando in cronologia, mi pare il nome della vincitrice del lavoro di Percival Everett, ha risposto immediatamente. Abbiamo anche Dino dalla Bolognina, abbiamo Paola, abbiamo chi ha dato nome completo, Sanpei Mihira, abbiamo Gianluca, buongiorno a te Gianluca. Chi è stato così preciso con nome e cognome? Non riesco a individuarlo dal percorso di... Niente, e Jarno da Calderare, buongiorno a Calderare, allora Jarno, precisissimo. E un cappello giallo in testa, sotto il sole, sotto la tempesta. Gira il mondo come i marinai, quanti mari vedrai. Chiara, puoi ritirare un capolavoro per me, James di Percival Everett, La nave di Teseo, già da oggi pomeriggio in libreria Ubik. Intanto allora, last minute, Silvia. Sì, dunque, domani sera alle ore 20:30 presso la Casa dei Pensieri a Parco Nord avremo un dibattito su appunto Joseph Conrad. Ah, no. No, guarda, non sapevo neanche chi fosse Sanpei, okay. Devo confessare, sono abbastanza vecchia da non aver saputo rispondere a nessuna delle tue domande, non sapevo che c'era una sigla HGIM, non sapevo chi era Sanpei, ma Sanpei poi non l'ho mai sentito dire. Comunque torniamo indietro. Domani 20:30 Casa dei Pensieri, Parco Nord, un dibattito su Joseph Conrad nel centenario della sua morte, perché okay. È morto nel 1924. Parteciperanno due esperti conradiani che sono Maurizio Ascari e Rocco Coronato, che è pure il traduttore del Lord Jim. Io ti ringrazio tantissimo, alle 8:57 minuti è il momento dei saluti, ma grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori del Voltiamo Pagina. Mercoledì saremo presenti per continuare le nostre conversazioni letterarie. Vi lasciamo con lo stacco pubblicitario e a breve il rientro con Liberi Dentro. Segue poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali con il ritorno da Venezia di Piero Di Domenico. Quindi quante chiacchiere farete in questo spazio, eh? Poi vi ricordo il grande Rock Live con Nevio, la rubrica del mercoledì. A domani per andare in mostra. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao a tutte, grazie a tutti. Silvia. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Fill your pockets up with earth. Get yourself a dollar's worth. Away, boys. Away, boys. Heave away. The captain is a one-armed dwarf. He's throwing